1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti. Forza, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e vi anticipo che oggi avremo ospite alle 8:15 Caterina Simonsen. Chi è? È quella studentessa di veterinaria che un anno fa, no, qualche mese fa, fu attaccata molto, è una ragazza molto malata, 4 malattie rare, e fu attaccata molto da alcuni pseudo-animalisti perché si spese a favore della ricerca scientifica, anche con sperimentazione di animali, sugli animali. Oggi ha scritto un libro e ancora proseguono gli attacchi. Sarà nostra ospite alle 8:15. Poi parleremo ancora di scuola. È possibile dare un tema in classe alle elementari con il titolo "Chi uccidereste prima tra tuo papà e tua mamma? E tua mamma? Chi uccideresti prima?" Sono state sospese queste insegnanti. Ne parleremo più tardi, ora i giornali. Questo giovedì 23 ottobre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre così sulla manovra bollinata, ecco i tagli ai ministeri. Mentre l'attentato in Canada, Corriere della Sera, attacco al Parlamento, terrore in Canada, questo è il titolo di apertura. Si torna sulla legge di stabilità per Repubblica, scontro all'Unione Europea sui conti italiani, Renzi ora basta con l'austerity, e La Stampa, legge di stabilità, Roma e Bruxelles cercano l'intesa. Il terrorismo scuote il Canada, anche per il Messaggero, mentre tasse su benzina e sigarette, così apre il giornale, e sulle tasse, e il titolo è Renzi, tassa più di Letta, apre anche Libero. Mentre il Fatto Quotidiano, lo Stato è insolvente, se non paga è innocente. E l'apertura del Fatto Quotidiano è una vicenda che vedremo interessante. Ma siccome ci sono tantissimi articoli oggi che vorrei segnalarvi, parto subito con le letture, per l'appunto. A cominciare dall'anticipazione di ieri del Corriere, confermata, del fatto che tornerà in edicola L'Unità tra qualche mese. Protagonista del salvataggio è Guido Veneziani, editore di Stop, Vero, Miracoli, Rakam, queste alcune delle riviste, e che ovviamente viene subito raggiunto sia dal Corriere sia dalla Stampa. Al Corriere della Sera conferma nell'intervista di Alessandro Trocino a pagina 17: sì, è vero, e farò dell'Unità un giornale popolare. Ci sono 30 milioni di debiti, non credo che pagheremo 30 milioni di debiti, ma ci assumeremo il nostro compito in modo importante. E poi, come si immagina la nuova Unità? Voglio fare un giornale popolare nell'accezione positiva del termine. Certo non sarà il Sun, per intenderci non ci saranno le donne nude, ma certo se becchiamo la fidanzata di Berlusconi nuda, la pubblichiamo. Così Guido Veneziani, intervistato anche dalla Stampa, dice: il direttore sarà certamente un giovane, il direttore della mia rivista è il più anziano, tra virgolette, ha 34 anni, sono tutti dinamici, innovativi, e certamente sarà un giovane anche il direttore dell'Unità, nome che non dico neppure sotto tortura. E comunque aggiunge alla Stampa, visto che l'affare deve essere ancora chiuso, lo prendo come l'augurio di essere il nuovo padrone dell'Unità. Anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina intera a Miracoli, dal catalogo dell'IKEA al ritorno in edicola dell'Unità. Guido Veneziani è capo di un impero di periodici che supera i 200 milioni di ricavi, si prende il quotidiano. Ma il Fatto Quotidiano, a pagina 6, ha la notizia di apertura che vi dicevo. Il titolo di apertura del Fatto Quotidiano è questo, lo ribadisco: lo Stato è insolvente, se non paga è innocente. È una vicenda di un'inchiesta che è stata tenuta un po' sotto traccia. Gli indagati erano, pensate un po', Alfano, Padoan, Poletti, dunque tre ministri importanti, che sono stati di recente denunciati dalle comunità per minori che vedono la mancanza di pagamento dei fondi da parte dello Stato. Ma il PM ha archiviato: se lo Stato non paga, non commette reato. E nel spiegare l'archiviazione, il procuratore capo di Roma, Felice Pignatone, scrive: in pratica, la finanza pubblica deteriorata, è vero che non c'è il pagamento per queste comunità, ma la finanza pubblica deteriorata ha determinato negli ultimi anni una protratta e generalizzata condizione di insolvenza a carico di tutti gli enti erogatori di spesa. Era una vicenda, racconta Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano, partita da un avvocato, l'avvocato Francesca Conte, avvocato salentino, che ha rappresentato le strutture che accolgono i minori migranti per poi non essere state pagate. Lamentavano una mancanza di pagamenti di 10 milioni come arretrati negli ultimi 3 anni. Queste strutture hanno denunciato lo Stato per insolvenza, ma appunto c'è stata l'archiviazione perché se lo Stato non paga, ci sono le finanze pubbliche disastrate, care comunità dei minori. E quindi attaccatevi. Questo è il dato di fatto. Ma oggi La Stampa invece ha una notizia abbastanza incredibile, è un'esclusiva, riguarda ancora una volta Emilio Fede, una nuova indagine su di lui, racconta La Stampa con Paolo Colonnello a pagina 17, ed è un'indagine un po' torbida, che riguarda faccende torbide. Milano, Emilio Fede indagato per alcune foto che scottano, l'ipotesi è una vendetta su Mediaset. La vicenda, racconta Paolo Colonnello, è un feuilleton, ma con in mezzo una serie di fotografie imbarazzanti che raccontano di un possibile silenzioso ricatto che Fede voleva fare nei confronti dell'azienda o nei confronti di alcune persone nell'azienda quando fu cacciato dal TG4 con una furibonda trattativa. Per capirci qualcosa, racconta La Stampa, bisogna tornare al 28 marzo 2010, quando, dopo aver condotto il suo TG4, Fede riceve in ufficio la visita del capo del personale Mediaset, Luigi Motta, e del capo dell'ufficio legale, Pasquale Straziota, che in mano hanno la lettera di licenziamento. E Fede che fa? Estrae dalla scrivania alcune foto compromettenti, le mostra ai due interlocutori e dice: guardate chi sono i vostri capi, e adesso che ne faccio di queste? Le foto, che sembrano però dei fotomontaggi, da qui l'ipotesi del ricatto, sono pesanti, scrive La Stampa, e mostrano il capo dell'informazione Mediaset, Mauro Crippa, in compagnia di transessuali. E le foto, come erano uscite dai cassetti di Fede, vi rientrano e scompaiono per un po', fino a quando l'estate scorsa una lite col suo personal trainer induce quest'ultimo a presentarsi ai carabinieri di Cusano Milanino con un file audio che riporta lunghe chiacchierate di Fede a proposito di Berlusconi, Rubi, la mafia. Vi ricordate? Insomma, una vicenda molto molto torbida. Si parla in questo articolo della Stampa anche di questo personal trainer che accenna niente meno anche ad altre foto di Fedele Confalonieri ritratto in pose imbarazzanti, ma ripeto, immagini che nessuno ha trovato peraltro, immagini che in alcuni casi sembrano proprio dei fotomontaggi in cui Fede voleva vendicarsi di Crippa, colui che riteneva il vero autore del licenziamento. Insomma, una vicenda estremamente torbida che finisce sulla Stampa, il titolo: Emilio Fede indagato per alcune foto che scottano, ipotesi vendetta su Mediaset. Ma l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, che vince il premio Mani sul Volante, lo troviamo sotto la dicitura Fardelli d'Italia su Libero. È una vicenda che ha portato alla luce le Iene di recente, con un servizio di Nadia Toffa: pensione da 5.000 euro con un mese di contributi. È la storia di Marco Paolo Nigi, raccontata da Luciano Capone a pagina 11 di Libero. Chi ha visto le Iene lo ricorda per il ciuffo biondo cenere, il marcato accento toscano con cui insulta Nadia Toffa, che è lì a fargli qualche domanda sulla sua pensione. Lui è il segretario generale dello SNALS, sindacato autonomo della scuola, e della CONFSAL, confederazione che include lo SNALS. È il professor Marco Paolo Nigi. A dire la verità non insegna in università, il titolo di professore è un vezzo che gli attribuisce il suo sindacato e riferito ai suoi lontani trascorsi di insegnante di scuola media, ma al di là di questo ha vinto un win for life praticamente, incassando uno stipendio mensile di 8.000 euro, garantendosi un vitalizio da 5.000 euro al mese, fatto apposta per quelli a cui piace vincere facile. Dirige il sindacato che gli alza lo stipendio e così incassa un vitalizio più pesante. Come lo definisce Libero il segretario generale prof Pence Cons, consigliere anche del CNEL Nigi, nonché direttore del settimanale Confsal, società cultura lavoro, del quotidiano Scuola Snals, pubblicazione sconosciuta ai più, che però negli ultimi 10 anni ha ricevuto oltre 13 milioni di euro di finanziamento pubblico. Scrive Libero, abbiamo provato a intervistarlo, ma ci fanno sapere dal suo ufficio stampa che non intende parlare di montature scandalistiche. Pensione da 5.000 euro con un mese di contributi. In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Il boss? Boss, va bene, dai, siamo un po' boss. Allora, è arrivata la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato alla legge di stabilità. Non che tutto vada bene, questo almeno da quanto raccontano i giornali, Allora, intanto il Sole 24 Ore con Marco Mobili e Marco Rogari racconta dettagliatamente a pagina 3 dove ci saranno i tagli, quei 6,1 miliardi di tagli previsti dalla legge di stabilità, ministero per ministero. 504 milioni, per esempio, sono dalla difesa, che è il ministero in cui si taglia di più. Ma non solo i ministeri, anche 43 enti e organismi pubblici taglieranno. L'Istat, per esempio, 2 milioni di euro in meno di trasferimenti. Anche a Cantone, il presidente della commissione anticorruzione, vedrà tagliata la sua somma che va all'autorità anticorruzione. 10 milioni dal taglio di bilanci di organi di rilevanza costituzionale, 6 dalla Corte dei Conti, 3,2 dal Consiglio di Stato e dal TAR. Insomma, tutti i tagli dettagliati per arrivare ai 6,1 miliardi. Ma dicevamo, non tutto benissimo. Per esempio, il Secolo XIX è il giornale che racconta di una vera e propria rapporto freddo ormai tra Padoan e Renzi. Sapete che si vocifera da mesi di come non si siano mai piaciuti, che si sopportino, anche se pubblicamente dicono il contrario. Ora bisogna vedere se valgono le dichiarazioni pubbliche o il retroscena dei giornali. E comunque scrive il Secolo XIX il caos dei numeri tra Padoan e i Renzi boys. Alessandra Costante racconta: dire che si sono amati o anche semplicemente piaciuti non è possibile. Semplicemente Renzi e Padoan si sopportano, consapevoli di aver bisogno uno dell'altro. Uno ha il consenso e il carisma, l'altro il rispetto e la considerazione dell'Europa, che lo considera una garanzia, forse l'unica in Italia. Non c'è un inizio certificato della bufera, un punto nave nell'occhio del ciclone, ma nelle ultime settimane la tensione si è vista crescere di giorno in giorno e si sono raffreddati i rapporti da quando è comparso il ministro ombra dell'economia di fatto, Joram Gutgeld, 54 anni, l'ideologo degli 80 euro in tasca agli italiani, affiancato come consigliere economico a Renzi e non consono, diciamo, caratterialmente anche, racconta il Secolo XIX, al ministro dell'economia Padoan. Dunque rapporti freddini, soprattutto... sempre per andare sul Corriere della Sera, Mario Sensini, soprattutto perché i conti, questa storia dei bonus bebè per esempio, ha spiazzato un po' tutti. Pensate che l'articolo di Mario Sensini è questo: la ragioneria e quei conti che non tornavano. Racconta il Corriere che ieri si sono trovati di fronte il vice ministro all'economia Morando, il ministro al tesoro Padoan e il ragioniere generale Daniele Franco, quello che doveva poi bollinare la legge di stabilità. Ebbene, Daniele Franco, racconta il Corriere, si è trovato di fronte a numeri a volte bizzarri. come quelli sui costi del bonus bebè di 80 euro alle neomamme, valido 3 anni, a Palazzo Chigi hanno stimato un costo di 500 milioni l'anno nel prossimo triennio. Peccato, e qui l'avevamo spiegato anche 3 giorni fa, che il bonus, per come è scritta la norma, costi 500 milioni nel 2016, ma 1 miliardo... cioè nel 2015, ma 1 miliardo nel 2016, 1,5 miliardi nel 2017, 1 nel 2018 e 500 milioni nel 2019. Cioè, insomma, si accumulano ogni volta, ogni anno, i nuovi nati per 3 anni. A conti fatti, insomma, costa 3 miliardi in più rispetto a quello che c'è scritto nella legge di stabilità, e così a posteriori è stato fissato il tetto a 90.000 euro di reddito lordo annuo familiare, per far quadrare i conti. Insomma, conti bizzarri, così raccontano un po' i giornali. Alla fine però la bollinatura è arrivata e ora si guarda l'Unione Europea. Secondo il Fatto Quotidiano, che racconta con Stefano Feltri a pagina 4, in realtà i tecnici della Commissione Europea hanno già consegnato la lettera destinata all'Italia, lo hanno fatto mettendola nelle mani di Marco Buti, che è il capo della Direzione Economia e Finanza, ieri a mezzogiorno. Poi, racconta il Fatto, è iniziata una lunghissima attesa. Ancora ieri sera alle 20 si è diffusa la notizia di una videoconferenza tra Roma e Bruxelles con l'oggetto sempre lo stesso, la legge di stabilità. Insomma, la lettera della Commissione non è una bocciatura, ma è un qualcosa di naturale. In realtà qui da giorni, lo stiamo raccontando, c'è un duello che si sta consumando tra il presidente della Commissione Europea uscente Barroso, che vorrebbe una lettera dura, una premessa di stroncatura vera e propria alla manovra italiana, e la linea morbida che è incarnata dal presidente entrante della Commissione Europea, entrante, cioè Juncker, spalleggiato, udite udite, da Angela Merkel. Dunque anche Angela Merkel è dalla nostra parte, per una linea più morbida. Lo racconta bene Alberto D'Argenio a pagina 6 di Repubblica: la Merkel frena Barroso per evitare l'euroshock. Barroso vorrebbe essere contro l'Italia, ma la levata di scudi dei colleghi, del suo successore Juncker, di diverse cancellerie, sembra avere stoppato questa lettera. E così la lettera riscritta, ragione per cui nella tarda serata di ieri si prevedeva che sarebbe arrivata solo oggi a Roma oppure nella notte. Il testo originario della missiva sull'Italia non lasciava vie d'uscita a Roma, avrebbe portato automaticamente una bocciatura il 29 ottobre. Ma le correzioni ingiunte erano insostenibili, e poi c'era anche il rifiuto di riconoscere all'Italia le circostanze eccezionali come recessione, deflazione, riforme previste dal patto, e dunque una sonora bocciatura. La rivolta però è scattata l'altro ieri. Lo stesso staff del commissario agli affari economici, il finlandese Katainen, considerato un falco vicino alla Merkel, riconosceva che una simile richiesta avrebbe potuto causare uno shock sistemico a tutta l'eurozona, e la stessa cancelliera Merkel sarebbe intervenuta per stoppare Barroso. E dunque pare passare la linea morbida. Staremo a vedere, ovviamente. Anche Libero però la mette giù così: troppo vaga, e i tecnici rifanno la manovra. Insomma, questa manovra ha avuto un parto, e uso questa parola visto che si parla anche di bonus bebè, un po' travagliato, con dei numeri un po' ballerini che il ragioniere generale dello Stato ieri si è trovato di fronte quando ha parlato con Padoan. A proposito di numeri, c'è questa cifra che viene spiattellata in prima pagina da Libero, è una cifra che va tanto anche fa titolo, tanto che è il titolo di apertura: Renzi tassa più di Letta. È Franco Bechis, vice direttore di Libero, che fa dei calcoli e scrive: altro che alleggerimento fiscale, il premier Renzi ha messo nuove tasse per 13 miliardi e 414 milioni. Letta invece aveva messo tasse per 3 miliardi e 436 milioni e 500 mila euro. Ballano insomma 10 miliardi in più di tasse messe da Renzi al posto di Letta. Questo è ciò che scrive Libero in prima pagina. Tasse, tasse, tasse, Mauro Meazza, buongiorno. No, buongiorno. Non è che ti voglio buongiorno associare. Buongiorno Alessandro. No, forse preferivo quando mi associavi a queste cose, indagini, inquisiti, arrestati. Se vuoi oggi ce n'è, ti voglio associarti, lo so, a Scaiola che, no? Oppure Emilio Fede indagato. Ma non vorrei diventare la propria la voce delle tasse, mi sembra una cosa un pochino no, eh. Le tasse sono bellissime, ricordati. Sì, beh, diciamo gradevoli magari. Gradevoli. No, vabbè, comunque siamo tutti bollinati, siamo tutti più felici adesso che siamo bollinati. Tu sei stato bollinato? Sì, in fronte. No, molto bene. Volevo dirti, no, perché leggevo sul Sole 24 Ore che l'edilizia è tornata al 1967 come investimenti, e vabbè, questo sai, l'avevamo un po' intuito, ma addirittura al 1936 ho letto sul Sole 24 Ore di oggi come concessioni, quindi diciamo che c'è un certo rallentamento, vogliamo dire, un pochino, effettivamente. Una certa contrazione del mercato. In compenso arriverà una nuova blacklist per i paradisi, è scritto lì da qualche parte nella bollinata di stabilità, perché fanno una revisione ulteriore. Devi sapere che già esistono più liste, più blacklist, ne arriva un'altra, arriverà con un decreto del Ministro dell'Economia, vedremo poi insomma se il Ministro dell'Economia sarà d'accordo, perché appunto ci sono queste tensioni riferite da altri giornali. Non è sparita la retroattività, ma di questo, come dire, visto che mai descritto, mai presentato come l'uomo delle tasse, vorrei non appulcrare ulteriori parole, perché mi sembrerebbe proprio di sparare sulla Croce Rossa. Comunque l'IRAP, c'è lo sconto da una parte, c'è la retroattività dall'altra. Che ti devo dire? Mi raccomando, con i figli in caso di contese per le coppie che si separano, perché attenzione, il Tribunale di Roma ha detto che si rischia la condanna se si mettono i figli contro l'ex coniuge. E lo riferiamo classico, peraltro. È un gran classico, sì, per questo lo segnalo, perché insomma è un tema che purtroppo può interessare parecchie persone. Lo riferiamo, indovina un po', vediamo forse se sei stato attento. Enorme tributi. Ma senza forse, caro mio, io pesco qua e là, ma poi mi sai che sono sempre attratto. Sono sempre attratto. Facile. E speriamo di vincere facile, sì, adesso non vorrei sbilanciarmi, altri non hanno vinto. Altri hanno perso, ma sono allegri comunque. Ma sì, noi non siamo contenti comunque per le sconfitte altrui, tranne che quando riguardino alcune squadre, ma non dico quali. E con ciò, guarda, io ti chiedo se hai comprato qualche BTP Italia, sottoscritto. No, ebbene ti sei tenuto i 2 sì. euro. No, invece bravo. Sì, vedi, devo svelare così al mondo. Chiamo sempre il mio amico che lavora in banca, gli chiedo consigli. E allora, guarda, leggi Maramonti oggi su Sole 24 Ore, che ti spiega proprio l'andamento e le aspettative sul BTP Italia. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, l'X Factor dell'informazione. L'X Factor, vabbè, non è pubblicità occulta per X Factor di questa sera, che però purtroppo non riuscirò a guardare. Ovviamente molti giornali aprono sulle notizie che stanno arrivando da ieri sera e anche nel corso della notte dal Canada, dove, non so se lo sapete, se vi siete svegliati e non avete avuto modo di vedere la TV, ma c'è stato un attacco al Parlamento di Ottawa. Un attacco con una sparatoria, è stato ucciso un soldato canadese, tra l'altro un soldato di origine italiana, Nathan Cirillo, ed è stato ucciso un attentatore, non si sa se sia l'unico, se fosse un comando. Comunque questo attentatore è Michael Zehaf Bibeau, come racconta Guido Olimpio a pagina 3. Michael e i ragazzi della Jihad, il Canada fabbrica di estremisti. Anche su Repubblica c'è un profilo di Alex Van Buren su chi sia questo Michael, convertito già nel mirino dei servizi, ex tossicodipendente con la passione per l'Islam. Michael Zehaf Bibeau, l'uomo che ha sparato alla guardia Cirillo, è spuntato online sul profilo Twitter già legato ai terroristi del cosiddetto Stato Islamico. L'uomo era noto all'intelligence, tanto più a quella canadese, 32 anni, nome di battesimo Michael Joseph Hall. Poi si è convertito all'Islam e ha preso il nome Zehaf Bibeau, compagno di un altro convertito all'Islam jihadista, Martin Couture Rouleux, che tre giorni fa, il 20 ottobre, nel Quebec aveva travolto due militari canadesi, uccidendone uno e avvertendo prima di questa azione il centralino della polizia dicendo: ho assassinato un soldato per piacere a Dio. Insomma, il terrore ovviamente da parte di tutti i giornali è quello dei cosiddetti lupi solitari, cellule di fanatici che in nome dell'Islam pensano di dover compiere queste azioni terroristiche. E come racconta Lorenzo Cremonesi, la rete planetaria di lupi solitari, questo a pagina 5 del Corriere della Sera, visto che l'ISIS è riuscita dove Al-Qaeda ha fallito, è riuscita a fare arruolare volontari con i video connessi con i social media, e ovviamente c'è terrore nelle comunità occidentali perché queste persone, spesso conosciute ma difficilmente controllabili, un po' briglie sciolte, sono così in mezzo a noi e possono colpire da un momento all'altro, quando, così come è successo in Canada. Comunque troveremo, immagino, domani, soprattutto visto che il fuso orario non è favorevole, più notizie sui giornali su questa vicenda, anche se già molti giornali aprono. Vicende di cronaca, vi racconto di Scajola che si è presentato in tribunale a Reggio Calabria e insieme agli avvocati ha detto: ho agito per amore nei confronti di Lady Matacena, accusato di aver aiutato appunto Matacena, latitante condannato per associazione esterna alla mafia. Scajola si è presentato e ha detto: ogni mia azione è dettata da sentimenti d'amore, interessamenti motivati dal desiderio di mettersi in mostra con una donna estremamente bella, molto affascinante, rimasta improvvisamente sola e disperatamente bisognosa d'aiuto per qualunque cosa, così da apparire indispensabile ai suoi occhi e poter avere l'occasione di ritagliarsi dei momenti di intimità con lei. Ma Claudio Scajola dice... si difende le sue azioni per amore di Lady Matacena. A proposito di amore, oggi il Fatto Quotidiano racconta la storia invece di Wanda Ferro. Chi è Wanda Ferro? È la candidata per Forza Italia alle regionali in Calabria. La storia è questa: la candidata di Berlusconi e il boss con la Ferrari. Racconta il Fatto Quotidiano con Enrico Fierro a pagina 7 che la candidata appunto in Calabria per Forza Italia ha avuto una relazione in passato con Gino Sparacio, RAS della Messina degli anni 90. Il Fatto Quotidiano telefona anche per chiedere conferma e Wanda Ferro, gentilissima, dice: questa storia non mi imbarazza affatto, i politici collusi, loro sì che devono provare imbarazzo. Fine della telefonata e inizio del racconto del Fatto Quotidiano, anni 90, quando una giovane Wanda Ferro va a studiare a Messina e qui appunto conosce Gino Sparacio, 17 anni, mi diceva che faceva il pacchista, cioè più o meno il rappresentante, ma insomma qui inizia questa relazione e Wanda Ferro però in qualche modo dice cose del passato. Questo sul Fatto Quotidiano. Vabbè, che dire, c'è la baby escort di Cuneo che parla alla stampa, una ragazza 17enne che si accompagnava a uomini per soldi, fa una lunga intervista a Lodovico Poletto sulla stampa. A Cuneo ovviamente dice: non dite per favore il mio nome, nessuno sapeva quello che facevo, né i miei genitori, tantomeno il mio fidanzato. Eccola qui la baby squillo che fa arrossire la provincia granda, come chiamano da queste parti il cuneese. Lei dice: alla fine che c'era di male in ciò che facevo? Con i grandi si può andare, mentre con quelli della mia età c'è il rischio che quando è finito tutto vadano in giro a sputtanarti coi loro amici. I grandi invece no, con loro questo rischio non c'è. Cosa facevo di male? Per raccattare dei soldi, questa baby squillo, 17 anni, si confessa alla stampa, a Ludovico Poletto: non facevo nulla di male. La trovate sulla stampa, trovate anche la storia di Cannavaro, campione di calcio, campione del mondo, indagato per le tasse insieme con la moglie, l'accusa di avere evaso dei soldi e quindi gli hanno sequestrato 900.000 euro di beni. Va bene, ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa. Ah no, prima c'è Rimpianto Greco, l'apertura della Gazzetta dello Sport. State allegri, allegri. che c'è il campionato. Comunque, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io non ci volevo credere. Una pagina del Corriere della Sera. Ieri c'è stato vento, un giorno di raffiche, aria fredda, un po' ovunque. Titolo del Corriere della Sera. Vento! Così. Vento! Ma porca... c'è stato vento! Vento! Ma chi se ne frega!